Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Crescono ancora i ricoverati, sono 8.500, quasi 800 in più. Crescono anche di oltre 70 unità le persone in terapia intensiva. La giornata ha segnato cosa? Il fatto che la Lombardia ha rallentato sulla stretta che aveva ipotizzato. Perché? Perché c'è stata una riunione tra il presidente della regione e il leader della Lega, Salvini. Salvini non è convinto e quindi le cose si sono fermate. Invece chi va avanti sulla stretta è la Campania, che oltre al coprifuoco dalle 23 alle 5 limiterà gli spostamenti da provincia a provincia. E il Piemonte che chiuderà i centri commerciali nel fine settimana. Per il resto poco altro dalla giornata di ieri, cose di prammatica come per esempio lo scontro all'interno della maggioranza sul MES, il fondo salva stati che ieri ha visto nuovi capitoli e nuovi elementi, ma insomma non ci possiamo stare su tutti i giorni. E poi la Champions, bene, la Juve e la Lazio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Sono le 6:31 minuti e 50 secondi con la D, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno a Simone Spezia. Mercoledì 21 ottobre. Ci sono Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Turri in assistenza in redazione. In redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Ci siamo e inevitabilmente la giornata di oggi ci porta ancora mille cronache su Covid. Qualcuno dice dovreste parlarne di meno, però è quello che vediamo tutti i giorni, quello che avviene tutti i giorni sotto i nostri occhi. Ed è per esempio il riempimento progressivo soprattutto degli ospedali milanesi. Quello che succede in Campania e ancora una volta torniamo a vedere quello che abbiamo visto in marzo. Allora ci si divide per esempio politicamente se la Lombardia abbia lavorato bene o la Lombardia abbia lavorato male. Quindi da una parte il centrodestra che dice no, la Lombardia straordinaria, dall'altra il centrosinistra che inizia a dire no, non funziona niente. Ci si divide tra virologi e infettivologi, è ancora pericoloso? No, non è più pericoloso, questa seconda ondata che cosa ci porta? Di tutto avevamo bisogno, tranne che di questa cosa qua. Come dice il Presidente della Repubblica, Mattarella, ci vorrebbe un po' più di unità anche tra le istituzioni, però così è, così è. Che ne pensate di questa nuova fase? Che ne pensate anche del fatto che appunto a fronte di una regione Lombardia, e qua non è un attacco, è una riflessione che vi metto là, abbiamo la regione Lombardia che dice vogliamo il lockdown, il coprifuoco dalle 23 alle 5, il ministro Speranza è d'accordo, poi arriva il leader del partito del quale il presidente della regione è espressione e tutto si rallenta perché questo leader di partito non è convinto. Ma io non so, e qua l'opinione la dico, sarà il presidente della regione che deve decidere qual è la strategia migliore, piaccia o non piaccia, Poi saranno i ristori per i commercianti, tutto quello che volete, per chi ne soffre di questo blocco dalle 23 alle 5. Però sarà il presidente della regione che decide e si assume anche le responsabilità di questa scelta, no? Nel bene e nel male. Ieri Fedez, oggi Chiara Ferragni, mascherine. Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata E un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore, che tutti di noi in primis abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che è quello di un lockdown. Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi, quindi mettete la mascherina. Dice il buon Carmelo Lauricella dalla regia, datele però un microfono decente. L'influencer con un microfono sembra una telefonata da Nuova Delhi. Il ministro Speranza ieri a Di Martedì: lavoriamo giorno e notte per evitare un nuovo lockdown. Lavoriamo giorno e notte per evitarlo, ma lo ribadisco, l'esito non è scontato, dipende da quello che riusciremo a fare nelle prossime settimane. Oggi abbiamo ancora un margine, abbiamo una possibilità di piegare la curva senza le misure più drastiche, ci stiamo provando, altrimenti avremmo già assunto le misure più dure. Però dipende oggi da noi, dal governo, dalle regioni e anche dai cittadini e dai loro comportamenti. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, anche mail. Siamo in diretta su Facebook, eh? E ieri mi ha scritto un'ascoltatrice, poi magari ve la leggo questa cosa, perché ha a che fare proprio con la gestione della pandemia in Lombardia, eh? Ancora Speranza. La situazione è molto seria, credo che ci siano bisogno di parole di verità, bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. La curva cresce da ormai molte settimane, c'è stata un'impennata nelle ultime in modo particolare e abbiamo bisogno di uno sforzo in più da parte di ciascuno. C'è bisogno necessariamente nelle prossime ore di alzare il livello d'attenzione. Questo significa ridurre le occasioni di contagio, significa evitare uscite, spostamenti che non sono necessari e significa anche stare a casa il più possibile. E voglio dirlo all'ascoltatore che scrive, dice: sei proprio di sinistra, ce l'hai con la Lombardia che ha tanti posti letto. Ma no, guardi, per esempio le ricordo che nel periodo acuto della pandemia, quando ci furono molte critiche sulla Lombardia perché aveva creato l'ospedale in fiera, da questi microfoni dicemmo, e anzi dissi, che in realtà avere qualcosa di precauzionale poteva essere utile, cosa che effettivamente si sta dimostrando. Non ce l'ho con la Lombardia. Dicevo semplicemente che politicamente la scelta deve spettare, a mio giudizio, a chi è il responsabile regionale, in questo caso il presidente della regione Attilio Fontana, e non sarà mica il leader del suo partito che decide se si fa il coprifuoco oppure no. Abbiate pazienza, eh? Almeno la vedo così, magari sbaglio. Cara Francesca Sforza della Stampa, buongiorno, bentornata. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Abbastanza, un po', diciamo, preoccupata come tutti, immagino. Lo immagino. Tra l'altro ti voglio sottoporre questa cosa, Sforza, Francesca, che è Zaia, ti faccio sentire la voce di Luca Zaia, perché secondo me è la testimonianza ulteriore che stiamo rientrando in una fase fastidiosamente simile a quella di marzo, nella quale il tema scienziati, politici, cosa dicono gli scienziati, cosa devono fare i politici, come ci si organizza, sta tornando prepotentemente. Sentiamo Zaia. E però le istituzioni, mi permetta di dirlo, Mirta, non sono solo la politica, sono anche gli scienziati che dicono tutto il contrario di tutto, che poi sono, magari spesso rappresentano delle situazioni nelle quali loro non hanno nessuna responsabilità, perché poi quando si trova qualcuno nei talk show o suoi ospiti bisogna sempre partire da un presupposto: questo signore che responsabilità giuridiche ha davanti al cittadino? Io ce le ho, perché ho l'obbligo di garantire le cure ai cittadini. Qualcun altro magari esprime considerazioni e può dire quello che vuole, perché tanto non deve mai rendere conto. Gli ha fatto eco anche Beppe Sala con toni più morbidi, poi vedremo se avremo spazio per sentirlo. Però Francesca, il clima complessivo sembra un po' lo stesso clima di aprile, no? Passato il momento di grande unità nazionale che avemmo più o meno alla fine di febbraio, inizi di marzo, iniziano gli scontri tra le regioni, gli scontri tra governo e regioni, gli scontri tra governo e sindaci, tra regioni e sindaci, gli scontri tra politica e scienziati. Non ne siamo usciti migliori. Diciamo che, no, non ne siamo usciti migliori, e si trascura però un'evidenza, che adesso conosciamo di più questa malattia. E in fondo una cosa tutti l'abbiamo imparata, e l'hanno imparata i politici, e l'hanno imparata gli scienziati, e l'hanno imparata persino i cittadini, l'abbiamo imparata tutti, che l'isolamento, il distanziamento sono fondamentali per impedire la diffusione del virus. Immagino tutti noi ricordiamo ancora quella efficacissima comunicazione, direi pubblicitaria, ma insomma con i cerini che si accendevano, no? E quando sì, se ne levava uno si interrompeva la catena. Siamo esattamente in quella fase. È una fase in cui non c'è, ahimè, molto da capire, non c'è molto da approfondire, c'è molto da agire. E io mi rendo conto che l'azione è impopolare perché l'economia stringe davvero, e capisco tutti quelli che si trovano in una posizione di sofferenza. Però oggi leggevo le dichiarazioni, per esempio, delle istituzioni argentine. L'Argentina sta attraversando forse il suo momento peggiore, con picchi di mortalità assurdi. Allora l'economia può chiudere e poi può riaprire. Le vite perse non si riprendono. Io credo che questo debba rimanere un pochino un'unità di misura. Nella difficoltà, nella lucidità di agire al meglio, ma le vite sono più importanti, io credo che bisogna dirlo. Sì, le vite e le cure, perché poi il grande tema è quello, non a caso, lo dico agli ascoltatori che nuovamente scrivono, sì, ma il 95% dei contagiati è asintomatico. Non a caso con questa trasmissione partiamo non dando mai il dato dei contagiati, o quasi mai il dato dei contagiati. Il dato che forniamo è il dato di crescita di occupazione dei ricoveri e delle terapie intensive, perché quello che conta in questo momento è esattamente quel dato là, ossia il momento nel quale la crisi diventa una crisi sanitaria difficilmente gestibile all'interno degli ospedali. Cioè, per me il tema è quello fondamentalmente, perché sì, è vero, si ammalano di meno gli anziani in questo momento, le persone che arrivano negli ospedali sono più tra i 50 e i 60, quindi il tasso di sopravvivenza è più elevato, per carità, a parte che qualcuno muore sempre, quindi questo va tenuto presente. Ma poi, cara Francesca, il tema è esattamente questo, cioè una questione sanitaria, cioè il sistema sanitario regge, è in grado di sostenere l'impatto di questa seconda ondata oppure no? Tutto si riduce a quello. No. Credo che i presidenti della regione, come ricordavi, abbiano le maggiori responsabilità, ma attenzione, intendendo per responsabilità non la colpa del giorno dopo, ma la possibilità di assumere delle decisioni. Io credo che il livello locale vada estremamente rispettato. Noi abbiamo visto con questi DPCM del Presidente del Consiglio anche una certa, come dire, rassicurazione. Il cittadino viene rassicurato dal sapere che c'è un'organizzazione centralizzata, ma la realtà del sostegno si dà a livello locale. Allora io credo che se c'è un'indicazione di massima che il DPCM offre, ci deve essere poi dopo un'adeguazione massima a quell'indicazione, che prevede delle differenze da situazione a situazione. Questa è un'altra cosa che il Covid ci ha insegnato. Ogni situazione va gestita e isolata in modo singolo. Non si può agire massificando le decisioni. Non funziona, semplicemente non funziona. Diceva Luca Zaia, bisogna vedere effettivamente cosa succede negli ospedali. E allora sentite il virologo Pregliasco che cosa ci dice sulla catena di comando del suo ospedale. La situazione la vedo nel mio ospedale, cioè abbiamo persone che o sono positive tra gli operatori o sono contatti stretti di casi familiari, e ho la catena di comando dell'ospedale in quarantena. La situazione in Lombardia, secondo Pregliasco. È stata un'indicazione che già abbiamo dato come Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia al governatore e all'assessore in una presa d'atto che in Lombardia la situazione sta per precipitare. Questo è l'elemento che a mio avviso va detto. In Lombardia la situazione è questa, con il sindaco Beppe Sala che parla di una situazione critica a Milano. Un altro sindaco, quello di Napoli, continua la polemica con il presidente della regione De Luca, perché dice: io non vengo informato delle cose. Vi ricorderete, l'ha detto anche ai nostri microfoni. Sentiamo De Magistris, ieri ospite di Bianca Berlinguer. Prima di chiudere Lombardia si sono consultati i sindaci, le associazioni. De Luca decide lui da solo, cioè decide stasera. Lei l'ha letto il dispaccio, quella cosa che ha letto. Lei noi lo non conosceva? Sappiamo niente. Io l'apprendo da lei. Ah, no, non ne sapeva niente lei, no, di questo. No, l'apprendo da lei. Quindi l'ha saputo adesso che c'è divieto di spostamento. Da lei, ma si può governare in questo modo? Dal 26, dal 23 ottobre. Non so se sia vero, se è vero è surreale. Il traffico, poi, dato che ieri ne abbiamo anche discusso, ma la scuola è veramente fonte di contagio oppure no? Che cosa ci dicono i dati? Ci fermiamo il traffico e poi ne parliamo. Altro ascoltatore scrive: non è vergognoso che ci siano solo 9 milioni di download di Muni? No, guardi, io la cosa vergognosa che trovo è che le autorità sanitarie locali non utilizzino i Muni come è stato nel caso del Veneto. Quello lo trovo veramente scandaloso, Se avessimo la certezza che Immuni funziona, sappiamo con 8 milioni di download che ci sono state, mi pare, 8.000 o 9.000, 900 segnalazioni, se non vado errato. Insomma, siamo su numeri ridicoli, numeri ridicoli, oggettivamente, visto poi il tasso di contagio che c'è in questo momento. Allora, fin dall'inizio della pandemia abbiamo un problema con i numeri, lo abbiamo detto fin dall'inizio, perché i numeri sono sempre difficilmente paragonabili. Un giorno hai 5.000 contagiati con 50.000 tamponi, e un altro giorno ne hai, cioè hai 100.000 tamponi e 7.000 contagiati, e poi non sai mai questi tamponi quali sono, se sono i tamponi di controllo, di verifica, per vedere se uno è veramente guarito o non è più positivo, se sono i tamponi diagnostici, quelli che ti servono a sapere se sei malato oppure no. Ma questo è un paese che ha un problema con i dati, storico, con la gestione dei dati, capire come vanno le cose basandosi sui numeri. E tra i dati che è difficile trovare, i dati che sono difficili da trovare sono anche quelli sulla scuola, per esempio, per capire se veramente la scuola è una fonte di contagio oppure no, come alcuni ritengono. Salvatore Lattanzio è dottorando in economia all'Università di Cambridge e ne ha scritto per il sito lavoce.info. Lattanzio, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Tra l'altro, buongiorno, per lei credo che siano le 5.50, quindi anche un po' più dura. Allora, Lattanzio, ci dice un po' che cosa emerge dallo studio che ha fatto? Sì, allora, io sono partito dall'osservazione che, appunto, come introduceva lei, ci sono ancora scarse informazioni sul contributo delle scuole all'aumento dei contagi che abbiamo osservato negli ultimi giorni. Sappiamo che ci sono stati dei test di screening nelle scuole che hanno mostrato come siano effettivamente pochi gli studenti o il personale docente e non docente che è risultato positivo a questi test di screening. Tuttavia è possibile che le scuole contribuiscono al contagio non solamente all'interno dell'edificio scolastico, ma anche all'esterno della scuola. Quindi è possibile che, come è stato detto negli ultimi giorni, il fatto che molti studenti debbano prendere i mezzi di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per raggiungere la scuola, questo generi un sovraffollamento che potrebbe determinare un aumento dei contagi nelle altre fasce della popolazione, soprattutto perché sappiamo che i ragazzi tendenzialmente tendono a sviluppare delle forme asintomatiche e poi sintomatiche della malattia in misura superiore rispetto alle fasce più anziane. Quindi quello che ho fatto è stato cercare di confrontare l'andamento dei contagi nelle regioni che hanno riaperto le scuole il 14 settembre rispetto, sì, a quelle che hanno riaperto le scuole il 24 settembre, sì, cercando di controllare per fare in modo che queste due, questi due gruppi di regione siano il più comparabili possibile. Sì. Quello che trovo è che prima della riapertura del 14 settembre la curva dei contagi nei due gruppi di regione è assolutamente comparabile, non, sì, ci sono differenze significative. Anche dopo questo si conferma, e si conferma all'incirca per 25 giorni, cioè per 25 giorni si continuano a osservare differenze tra i due gruppi di regione. Dopo i 25 giorni inizio a osservare un cambio di trend nelle regioni che hanno riaperto prima, e questo è anche consistente con una storia per cui il contagio ci mette del tempo, diciamo, ad essere a diffondersi. Sì. Esatto. E quindi quello che trovo è che appunto questo aumento nell'ultima settimana dello studio, che si fermava il 17 ottobre, contribuiva a spiegare all'incirca il 70% dell'aumento del contagio nelle regioni che hanno aperto per prima rispetto a quelle che hanno aperto dopo. Tutto questo, Lattanzio, per così dire, in teoria, nel senso che in pratica i dati sono questi, nella sostanza, dice lei, ci vorrebbe qualcosa di un po' più preciso, un po' più approfondito in termini di numeri disponibili, poi da analizzare, da studiare, per poter dare una risposta definitiva. Sì, assolutamente. I dati che io ho utilizzato sono quelli che sono pubblicamente disponibili dalla Protezione Civile, che quindi registrano il numero di casi, il numero di nuovi positivi o di ricoveri o di decessi nelle regioni. Ci sono poi il numero totale, c'è poi il numero totale di casi a livello provinciale, però per esempio l'Istituto Superiore di Sanità nel report che pubblica settimanalmente ha tutte le volte l'informativa sul numero di casi per comune di domicilio di residenza. Ecco, avere quei dati disponibili sarebbe molto informativo perché permetterebbe di andare a un livello più granulare. Per esempio, si potrebbe sfruttare la chiusura delle scuole in Campania, decisa dal presidente De Luca, di cui si commentava anche poco fa, per capire se c'è un effetto sui contagi nei comuni che si trovano al confine, per esempio tra la Campania e il Lazio, sì, cioè nei comuni che si trovano in una regione che ha chiuso le scuole rispetto a una che le scuole le ha tenute aperte. E questo sarebbe fondamentale, ecco, avere questa informazione per fare delle valutazioni di impatto scientifiche, sì, che magari che è quello semplice, che, esatto, al momento siamo in grado di fare solo parzialmente, esatto, in questa modalità empirica che ha utilizzato lei, prendendo i dati delle regioni che hanno riaperto prima le scuole e quelle che hanno riaperto dopo, posto che forse Lattanzio, la campagna in questa chiave è un po' un'eccezione, o è semplicemente una questione di pressione sugli ospedali, perché la campagna ha riaperto tardissimo le scuole. Sì, sicuramente l'aumento dei contagi, io anche nell'articolo ho cercato di escludere in tutti i modi che si possa arrivare di nuovo a una chiusura delle scuole, perché la, sì, chiusura delle scuole può avere dei benefici di breve periodo sulla diffusione, sì, dell'epidemia, che sono anche da vedere, perché poi se i ragazzi in assenza della scuola vengono lasciati con i nonni, non è detto che questo porti a dei benefici di breve periodo sulla salute pubblica. E poi sappiamo benissimo che ha dei costi altissimi nel, sì, lungo periodo, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Certo. Quindi il problema, io credo, sia nelle misure di contorno alla riapertura delle scuole. Quindi o bisogna pensare a delle forme ibride di fornitura del servizio scolastico, perché, sì, anche stare 2 ore a scuola per i ragazzi è meglio che stare 0 ore a scuola in una settimana. Sì. O cercare in tutti i modi di rafforzare il trasporto pubblico per cercare locale, di decongestionarlo. Sì. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Salvatore Lattanzio per essere stato con noi, che è appunto dottorando in economia all'Università di Cambridge, ha scritto per lavoce.info e scrive per lavoce.info, Francesca Sforza e La Stampa. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa. Iniziamo anche oggi da Roma, che ci regala sempre qualcosa, Il Campidoglio, appalti per incollare le etichette. Il Campidoglio si avvale di un servizio esterno per appunto incollare le etichette, trasportare pacchi da un punto all'altro dei palazzi, contare le penne. È meraviglioso, GR. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.